Cari amici, questa settimana sono venute a mancare due persone che mi erano molto care. La prima era la mia nonna materna, che è venuta a mancare questa settimana in Eretz Israel. Lei ha vissuto la maggior parte del tempo a Chicago, negli Stati Uniti, e anche io ho vissuto a casa sua per diverso tempo quando ho frequentato la scuola lì a Chicago. E la seconda persona che è venuta a mancare, che molti di voi sapete, era lo Shochet di Roma, Rav Elia Wazzana. Entrambe persone dalle quali possiamo trarre moltissime lezioni di vita. E stavo pensando questa settimana cosa ci fosse nella parashah della nostra settimana, che è la parashah di Noach, che potesse essere un'indicazione di trarre lezioni di vita appunto da queste persone, legato alla Parashah. E ho visto che nella Parashah c'è chiaramente la storia del diluvio, che è la storia più nota di questa Parashah, ma c'è anche un'altra storia, anche molto nota, nella stessa Parashah, che è la storia della famosa Torre di Babele. La famosa storia della Torre di Babele, le persone che si sono trovate tutte insieme, i discendenti dei reduci, i superstiti del diluvio, quindi i discendenti di Noach, che si sono trovati tutti nella valle che poi diventa la Babilonia, la valle della Mesopotamia. Con il timore di essere dispersi, cercando un consiglio cosa fare. Hanno deciso di costruire una grande torre, e la Torah cita le loro parole, i loro pensieri, dove dicono: costruiamo per noi una città con una torre che giunge in cielo, come dire, una torre molto alta. Venasse lanu Shem, e così faremo un nome per noi. Cos'era lo scopo della costruzione di questa torre? Possiamo vedere nei commentatori della Torah in generale due idee per lo scopo della torre. La prima, in modo tale che anche chi venisse da fuori potrebbe vedere che qui c'è una grande città importante, quindi come una sorta di torre come quelle che si mettono in mezzo al mare, adesso mi sfugge il nome, un modo di essere riconosciuti da lontano. E la seconda idea è che una questione di difesa, cioè sopra la torre potrebbero trovarsi delle sentinelle e delle guardie che potrebbero dare l'allarme o delle informazioni riguardo a quello che succede intorno alla città. Ora c'è scritto nella Torah che HaKadosh Baruch Hu non amava questa idea e ha fatto sì che loro diventassero confusi e che non potessero comunicare bene tra di loro, e appunto accadde quello che non volevano accadesse, che furono dispersi su tutta la terra e cessarono di costruire quella città e quella torre. Ma cosa sia davvero stato il loro peccato per il quale HaKadosh Baruch Hu si adirò così fortemente con loro fino a coinvolgersi, tra virgolette, a distruggere non solamente la loro città, ma soprattutto il loro pensiero? Bisogna capire un po' meglio, perché non è così chiaro cosa sia stato così terribile. Quando si tratta della storia del diluvio, allora lì la Torah dice che le persone erano corrotte, c'era una corruzione totale, non si seguivano nessuna indicazione di moralità. Qui però non c'è scritto questo. E cos'è allora il problema? Per quale motivo c'è stata questa reazione, diciamo, da parte del divino? Ora, il contesto ci aiuterebbe forse a capirlo. E tra l'altro, È un contesto che forse può essere preso come paragone per un contesto nostro attuale. Il contesto storico, dico. Il contesto è che si trattava, appunto, come dicevo, di persone che erano discendenti, figli, nipoti, discendenti delle persone della generazione sopravvissuta al diluvio. Durante il diluvio ci ricordiamo che è praticamente stata annientata l'umanità e sono rimaste pochissime persone. E appunto questi erano i genitori e i nonni della generazione della Torre di Babele. Perché questo contesto ci ricorda anche il nostro contesto oggi? Perché anche noi siamo figli e nipoti di una generazione che è sopravvissuta a un tipo di diluvio. Nella Shoah. Nel momento in cui sono stati uccisi e annientati milioni di ebrei. Allora forse anche noi, forse noi potremmo trarre qualche lezione sul nostro comportamento da superstiti, non seguire l'esempio che gli altri superstiti della Torre di Babele, i superstiti del diluvio, hanno invece, non seguire il loro esempio. Perché evidentemente loro hanno fatto qualcosa di molto sbagliato da superstiti. Cosa hanno fatto? Effettivamente, forse è nascosta questa la risposta nelle parole della Torah dove dice Venasseh lanu shem, faremo per noi un nome. Cioè la Torah dice lo scopo della costruzione della loro città con la grande e alta torre è perché noi potessimo in qualche maniera rendere eterno il nostro nome. La conoscenza di noi nel mondo. Oltre a questo, non sembra abbiano avuto alcun altro scopo più profondo, con un contenuto più valido, qualcosa che abbia un senso oltre al essere conosciuti, oltre al dire il mio marchio deve rimanere qui. L'impressione che ho fatto deve sempre essere presente. Ora, questa di per sé non è una cosa così terribile. Il problema è se questo è l'unico scopo nella vita e anche il modo per arrivarci non è dei migliori, allora questo sarebbe un problema. Perché se appunto, ripeto, se questo è l'unico scopo della vita, la persona sarebbe pronta a fare tutto, qualsiasi cosa, per arrivarci. Se lo scopo nella vita è di diventare un po' migliore, di crescere, di imparare, di approfondire, allora lo scopo stesso richiede che ci si arrivi in una maniera giusta, in una maniera corretta, in una maniera di giustizia e di correttezza. Ma se lo scopo è unico, è quello di garantire il proprio nome, allora tutto diventa un metodo e tutto diventa un veicolo per arrivarci. Anche ciò che va contro la moralità, anche ciò che va contro la correttezza e anche ciò che va contro la giustizia. E allora è come se non avessero capito la lezione, non avessero imparato la lezione che HaKadosh Baruch Hu voleva trasmettere attraverso il problema della generazione precedente, quella del diluvio. E quindi avrebbero dovuto impostare la loro vita in maniera diversa, non pensare solamente a sé. Ma pensare a qualcosa di più grande di sé. E questo era il loro peccato. Questo è ciò che non trovò la grazia negli occhi di HaKadosh Baruch Hu. E quindi è chiaro cosa dovrebbe essere la lezione da trarre da questa situazione, da questa parashah e da questa storia in particolare. Nel costruire qualcosa servono delle fondamenta sulle quali si basa, delle fondamenta forti. Delle fondamenta valide soprattutto. Ci deve essere un contenuto. Lo scopo non è la costruzione stessa. Lo scopo è cosa contiene questa costruzione. Questa è una casa. Mi sono costruito una casa. Ok, perché ti sei costruito una casa? Cosa ci devi mettere in questa casa? Ci devi creare una famiglia? Ci devi fare un luogo di studio, un luogo di preghiera, un luogo di approfondimento? Un luogo di beneficenza, allora giustifichi la costruzione della casa. Se la costruzione della casa è per metterci sopra il nome, eccomi, io ho costruito questa casa, c'è un problema. Non è per questo che va costruita la casa. E credo che, appunto, si può legare questa cosa a ciò che vogliamo costruire nella vita. Tutti vogliono lasciare, diciamo così, un ricordo di sé nella vita. È un sentimento umano naturale. La domanda è che tipo di ricordo vogliamo lasciare? Allora si lega direttamente a queste due figure che noi abbiamo perso questa settimana. In primis, come dicevo, la mia nonna, che è cresciuta negli Stati Uniti, è nata nel 22, è cresciuta negli Stati Uniti in un'epoca in cui essere ebrei osservanti in quel luogo, negli Stati Uniti, non era assolutamente una cosa facile, anzi, bisognava andare controcorrente. Chi voleva rispettare lo Shabbat non trovava un lavoro. Quando trovava un lavoro e andava via il venerdì, gli dicevano direttamente non pensare neanche di tornare il lunedì, vai a cercare un altro lavoro. Questo era il clima negli Stati Uniti all'epoca, non in ambienti non ebraici, ma in ambienti ebraici addirittura. Gli ebrei che venivano dall'Europa, l'idea prevalente è che l'ebraismo va bene per l'Europa, ma non per il Nuovo Mondo. Seguire l'ebraismo, la Torah, le mitzvot. Quindi erano tra persone, tra le molte poche persone che si sono dedicate alla Torah fino al punto di dire noi faremo di tutto, anche se significa non troviamo lavoro e dobbiamo lavorare molto più duramente per mantenere la famiglia, eccetera, eccetera, per garantire lo Shabbat, per garantire la Kashrut. Questa è la casa nella quale mia nonna con i suoi 8 fratelli e sorelle è cresciuta ed ha aiutato a crescere i suoi fratelli e sorelle più piccoli. E, per lei nella vita non era importante la casa, per lei nella vita era importante il contenuto. Non ha mai dato importanza agli aspetti materiali della nostra esistenza e ha sempre fatto fino a proprio i suoi ultimi momenti, ha sempre fatto molta molta attenzione ai dettagli delle mitzvot. Era anche una persona studiosa, che era anche raro all'epoca una donna che studiosa, conoscente di Torah, faceva molto attenzione, minuziosamente, non solamente alle mitzvot, ma anche alle usanze specifiche in tutti i loro dettagli. Questa è una cosa che veramente non ci dimenticheremo. E soprattutto la lezione di costruire una casa piena di contenuto, ed è più importante il contenuto che la costruzione esterna. E volevo legarlo anche nella stessa esatta maniera al Shochet Rav Eliyahu Hazana, che ugualmente ho avuto modo, grazie a Dio, di conoscerlo molto bene, di stare a casa sua, di incontrarlo in molte occasioni. Quando ero bambino veniva sempre tutti i Shabbat al tempio di Via Balbo e così via. Ugualmente possiamo dire la stessa cosa. Non era mai preoccupato di aspetti materiali della vita, era sempre metteva sempre a fuoco quello che gli interessava, non era questo. Era solamente come bisogna rispettare l'Halakha, cosa richiede la Torah da noi. Quali sono i valori che trasmettiamo ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai nostri allievi? Questo era per loro davvero il vero Naaseh Lanu Shem, il vero crearsi un nome. Il crearsi un nome inizia nel momento in cui la persona smette di pensare al proprio nome. Allora si crea davvero un vero nome. Shabbat Shalom.